siamo attivi in diversi settori strategici e praticamente dall'industria del legno alle case in legno, all'ingegneria in legno, alle porte in legno e all'Objektbau, che sarebbero praticamente le grandi costruzioni in legno chiavi in mano. Vi presentate con qualche novità? Quest'anno quali sono? Novità più grande la stiamo festeggiando praticamente oggi, che è il rebranding di tutto il gruppo. Un nuovo marketing, il nostro gruppo si presenta con dei marchi molto più snelli e siamo più visibili, più trasparenti anche verso il mercato. Questo è una novità, se no abbiamo portato tante novità delle costruzioni che abbiamo fatto durante l'anno. Per esempio, vuole raccontarci che cosa state facendo, cosa state sperimentando in Emilia? In Emilia, per esempio, abbiamo finito proprio una settimana fa o 2 settimane fa una delle scuole, il grande bando scuole, dove c'erano 28 scuole da costruire. Una ne abbiamo fatta noi e proprio entro 2 mesi abbiamo fatto questa scuola chiavi in mano, finita, e la scorsa settimana sono entrati la prima volta gli alunni. Un'altra novità, mi sembra anche molto importante, quella del social housing. A Brescia c'è il nostro cantiere Haller, dove stiamo realizzando 72 alloggi in 4 edifici, 4 piani, e anche un chiavi in mano. Entro 6 mesi tutta l'opera finita, anche con i lavori all'esterno. Quest'anno a MADEXPO si parla tanto di costruzioni a basso rischio sismico. Il legno è un materiale fondamentale da questo punto di vista. Com'è il mercato? Certamente il legno è il materiale probabilmente più adatto alla costruzione antisismica. Noi stiamo crescendo da anno in anno e vediamo soprattutto gli ultimi 10 anni che il nostro mercato si sta sviluppando sempre di più. Sicuramente l'antisismica è un argomento in più, però non è solo l'antisismica che fa crescere i nostri volumi. E il nostro materiale in generale, abbiamo un materiale ormai molto sofisticato e il nostro ricerca e sviluppo sta lavorando molto e miglioriamo da giorno in giorno. Però una cosa è anche importante: l'antisismica, il nostro prodotto non è diventato antisismico. Noi già da anni, già 20 anni, abbiamo costruito le nostre case e sono antisismiche, perciò nelle zone terremotate ci sono delle nostre costruzioni che abbiamo fatto lì più di 20 anni fa che non hanno subito danno. Perciò questa è la prova adesso che le nostre costruzioni sono antisismiche. È solo che adesso la percezione anche pubblica è cresciuta. Quanto incide il mercato estero nel vostro volume d'affari? Noi siamo un'azienda al 100% italiana perché la nostra sede centrale è in Alto Adige e perciò noi deteniamo le nostre quote. È un'azienda di famiglia qui in Italia e abbiamo la sede qui in Italia. Però abbiamo delle lavorazioni e siamo un gruppo europeo ormai, perché abbiamo le produzioni in Germania, Austria e Italia. Abbiamo circa il 40% del nostro fatturato totale in Italia, sempre anche i numeri totali in crescita, la percentuale di mercato però in diminuzione, perché siamo anche contenti di poter andare all'estero, cerchiamo anche di puntare sull'estero. E questo vuol dire che siamo anche pronti per l'estero. Questo è importante perché noi non ci dobbiamo nascondere, noi ormai possiamo anche fornire in Germania, Francia, Svizzera, Austria, e i nostri ingegneri sono i migliori che ci sono. Così oggi nei diversi settori siamo leader in Europa, soprattutto nell'ingegneria del legno, anche nell'industria del legno, praticamente dappertutto siamo tra i o il primo o il secondo in Europa nel nostro settore.